Bene, bene. Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene, tutto bene. Come è andata queste ferie? Come sono andate? Bene, bene. L'hai fatto il ponte, Patrus? Sì, sì. Ho fatto il pontissimo. Il pontissimo hai fatto. Il montone. Polpone. No, dai, erano due settimane che non andavamo in onda, quindi dai, questa è la prima puntata dopo due settimane. Anche beh, infatti, abbiamo saltato quella del primo maggio, visto che era la festa dei lavoratori. Noi siamo grandissimi lavoratori, quindi. Soprattutto io. Sì, sì. Soprattutto andare avanti l'Italia. Soprattutto il nostro amico Bindi. Sì, sì, sì. Iniziamo subito col dire che oggi è una piccola sorpresa. Cioè, sì, manca una voce. Manca una voce. Una delle tre voci, manca il Luke. Che è andato a Siena a vedere la magica viola. Ah, giustamente. Ah, viola, chiaramente. Sì, infatti. Comunque, maledetti. Oggi il nostro tecnico Bindo si è gentilmente offerto di no, è stato costretto. Prova, è stato costretto a essere lo speaker Bindo. Quindi e abbiamo il debutto alla voce del Bindi. Esatto, sì, sarà lui la terza voce. Beh, in effetti. Mi sembri un attimino teso. Che è successo? No, niente, no, no, no, no. Respiro come meglierò del mio faro. Cioè, farò del mio vero. Bene, va bene, iniziamo la puntata. È via. La mia questa. Scusa. Come ci fai? Con la carta che ci. Che ogni tanto c'è la carta rosa. Ci incarti così. Il pesce, questi qui, che è la carta gialla. Anche se la carta. Noi rispettiamo l'ambiente. Radio F rispetta l'ambiente. Anche se la carta rosa ti sta veramente bene. Ragazzi. Bene, iniziamo, dai. A chi sta? Patrussi, sta lei. Oh, iniziamo subito. Ma anche quest'oggi abbiamo. Quanti compleanni abbiamo oggi? Tre. Oggi ce ne abbiamo tre. Tre. Compleanno. Oh. Il primo è di Billy Barnett, nome completo William Bugh Barnett III, nato a Memphis l'8 maggio del 1953. È un cantante e chitarrista statunitense, fece parte del gruppo dei Fleetwood Mac tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, partecipando ai due album Behind the Mask del 1990 e Time del 1995. E adesso, per fare gli auguri di buon compleanno, vi facciamo sentire Don't Stop di Fleetwood Mac. Bene, è compleanno anche di un'altra persona. L'esordio. Ho già parlato un'altra volta. Un grande. Bene, è compleanno anche di un'altra persona. Alexander Arthur Van Allen, Alex. Nato ad Amsterdam l'8 maggio del 1953. È un batterista olandese, naturalizzato statunitense. Membro fondatore di Van Allen. Per loro mettiamo Jump. I'm not. dai. Bene tecnico, bene. Ora trova le scuse anche. Va bene, facciamo i nostri terzi auguri, giusto? Sì. A Dave Rowntree, Colchester, 8 maggio del 1964. È un batterista e percussionista britannico, membro dei Blur. Di loro vi proponiamo Song Chu, famosissima, estratta dal loro quinto album, che porta proprio il nome della band, appunto Blur, uscito nel 1997. Famosa anche per essere stata inserita nella list track del videogioco FIFA Road to World Cup 98. Vero. Blur, Song Chu. Bene, erano i Blur con Song Chu. Blur che tra l'altro stanno per far uscire un nuovo album, penso il 27esimo. Sì, non lo tipo. So. L'hanno fatti una marea, l'hanno fatti. Esatto. Ora torniamo a parlare della storia del rock. Esatto. Del 1902. No. 68. 68. Bene. Ed è la terza parte. No, terza o quarta? La terza. Ultima o penultima? Penultima. Ogni volta mi... Quindi non ti vergognate di partecipare a queste conversazioni? Tranquilli. Comunque, iniziamo con la terza parte del 1968 e andiamo a parlare di Born to be Wild. Questo che andremo a spiegarvi è un brano che è passato alla storia per tre motivi. Primo, perché è considerato il primo brano heavy metal della storia, visto che un verso dice I like smoke and lighting heavy metal thunder. Cioè, mi piacciono il fumo e il lampo, il tuono ed il metallo pesante. Con riferimento al rombo delle moto usate dai Riders, ovvero le Harley Davidson. Secondo punto, perché è appunto indissolubilmente associata all'immagine dei bikers. E terzo, perché è uno dei brani di punta del film Easy Rider, dove la canzone degli Steppenwolf presenta, a differenza della versione originale, un rombo di motocicletta in apertura, quasi a stringere ancora di più il legame con i bikers. Il collegamento suono ed immagine era così perfetto da vincere anche le resistenze di Peter Fonda, che fin dall'inizio era più propenso a utilizzare per la colonna sonora Crosby, Stills and Nash. Una piccola curiosità è che gli Steppenwolf presero il nome da un romanzo di Herman intitolato Il lupo della steppa, cioè Der Steppenwolf in tedesco. E inoltre il fondatore della band, John Kay, è infatti di origine tedesche. Ah, che strano. Born to be Wild, Steppenwolf. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Born to be Wild degli Steppenwolf. Bellissima. Bellissima canzone. Tra le altre cose era la prima canzone che avevo scelto del primo concorso che abbiamo fatto. Che ha perso. Che ha perso. Pensa a te. Pensa a te. Però l'abbiamo messa, quindi ho vinto, dai. A un certo punto. Per forza di cose prima o poi ritornano. Cioè, a volte ritornano. Adesso andiamo a parlare di un gruppo che in questi anni, insomma, ha riscosso notevole successo, ovvero i Beatles. E parliamo di una delle loro più belle canzoni, ovvero Hey Jude. Scritta da Paul McCartney per consolare il figlio di John Lennon dopo la separazione dei genitori. Quando Lennon e Yoko Ono cominciarono a vivere insieme, il giudice stabilì, in attesa del divorzio, che Julian continuasse a vivere con la madre Cynthia nella loro casa di Kenwood. McCartney, che era molto legato a Julian, il figlio di Lennon ha ricordato spesso di avere più foto con Paul che con suo padre, andò in macchina a trovarlo e mentre viaggiava, come spesso accadeva, gli venne in mente una melodia. Cominciò a canticchiarla e venne fuori spontaneamente il testo. Hey Julian, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Fu solo in un secondo tempo che decise di cambiare il nome del protagonista, pur mantenendo identico, ma nascosto per proteggerlo, il destinatario della canzone. Al posto di Julian mise Jude, ispirandosi a Judd, senza la E finale, uno dei personaggi del musical Oklahoma. Hey Jude è stato il più lungo singolo dei Beatles, dura infatti più di 7 minuti, ed è anche il più lungo singolo in assoluto ad arrivare al primo posto delle classifiche. A tutt'oggi ha venduto più di 8 milioni di copie in tutto il mondo. più o meno 20 anni dopo essere stato scritto nel 1987, autore e destinatario Paul e Julian si ritrovarono in un hotel a New York. Lì, per la prima volta, Julian Lennon seppe tutti i dettagli della canzone a lui dedicata. Beatles, Hey Jude. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. E questi erano i Beatles e i Jude. Adesso tocca di nuovo a me. E vi parlerò, per favore, dei Doors. Hello, I love you. L'opera precedente aveva incantato il mondo, con i suoi fuochi accesi e gli inviti a passare dall'altra parte oltre le porte della percezione. Il seguito, Strange Days, era stato brillante come l'esordio omonimo, anche perché figlio della medesima ispirazione. Ma adesso i Doors erano nei guai, per due ragioni. La prima l'ha spiegata apertamente Robbie Krieger nella biografia dei Doors: quando una band entra in studio ha materiale pronto per un paio di album, poi se ha successo va in tour e non riesce più a scrivere nuovo materiale. Quando entra in studio per il terzo disco è costretta a comporre in sala e differenza si sente. La seconda ragione è Jim Morrison, sempre più in preda all'alcol e dei suoi demoni. La Elektra non ha pazienza e chiede a gran voce un'altra hit, un'altra Light My Fire. Il re Lucertola reagisce distinto, proponendo di riempire l'intera seconda facciata con la sua poesia. Con la sua poesia. Celebration of the Lizard. Che John tradotto Dinsmore, Marro? Eh? Tradotto? Celebrazione della Lucertola. Ah, bravo. No, di Lizard, il... il nemico di Spider-Man. È ovvio. No, gioco Lizard e Spock. Bene, ma ritorniamo a noi. John Dinsmore scaglia le bacchette della batteria contro il muro e minaccia di andarsene. A salvare tutto e tutti, Adam Holtzman, un discografico intelligente che, frugando nei cassetti di Jim, trova il vecchio demo inciso nel 1965. Tra le canzoni c'è una inedita dal titolo interessante, Hello, I Love You. Niente, vai. Sì, così a caso. Così, random. Morrison l'aveva nel 65, dove aveva visto passare sulla spiaggia di Venice una bellissima ragazza di colore, descritta nel testo come Queen of Angels, regina degli angeli, con doppio riferimento alla città di Los Angeles e all'ospedale Queen of the Angels. È quello che serve, anche se manca quel sacro fuoco di dannazione che trasforma una bella canzone pop in una meraviglia dorsiana, tanto che molti vecchi fan grideranno al tradimento. Permetterà ai Doors di raggiungere comunque il primo posto nelle classifiche per l'ultima volta, nel 1968. Il brano ha un effetto di chitarra rubato da Sunshine of Your Love dei Cream, mentre l'intero impianto musicale deve più di qualcosa ad All Day and All of the Night dei Kinks. Molti anni dopo i Rem di Michael Stipe prenderanno a loro volta in prestito la struttura testuale per descrivere Pop Song 89. Per scrivere Pop Song 89. E adesso i Cugini di Campagna, no scusate, no. The Doors, Hello, I Love You. Bene, dai, allora sarà il concorso. Sì, stoppiamo per un attimo la storia del rock e andiamo con il concorso e leggiamo il contest e mettiamo, o meglio, vediamo chi è il vincitore e quali erano le canzoni. Quali erano le canzoni? Vai, vai a guardare chiavi, muoviti, vai, tecnico. Vai. Ecco che Mazzeo sta guardando chi ha vinto. Allora, chi ha vinto, Masa? Aspetta, non ci capisco. Io avevo messo i Depeche Mode con Enjoy the Silence. Bindo? Io ho messo Bob Dylan. No. Io avevo messo gli Aerosmith. The Scorpions. E Luke aveva messo Fatboy Slim, è vero? Sì, Fatboy Slim. Sì. Esatto. E il vincitore? Dai, leggiamo direttamente il vincitore. Chi è il vincitore? Dai, togliti la maschera, Patro. Togliti la maschera. Sono io. La prima volta. Ma c'è un vice mai. E manch'io, sì, sì. Ma è col bimbo. Manco secondo sto scelto. Ma la prossima volta si mettono insieme. Sì, sì. Rosina. Rosina, dei Red Hot. Dai, adesso vai. I Depeche Mode con Enjoy the Silence. right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. Ok, ci siamo. Finito. Beh, il concorsone. Sì. La canzone che io avevo messo, bellissima. Bellissima. Voi e che voi avete votato e che ha vinto questa settimana. Quindi questi erano i Depeche Mode con Angel Science. Ok. Quindi salutiamo quindi tutti gli altri che hanno votato le nostre canzoni per te. In saluto anche ai Cugini di Campagna, perché sono dei grandi comunque artisti della musica. Beh, italiana. È vero, dai, sono dei grandi della musica italiana. Comunque, continuiamo con la storia. Esatto. Continuiamo con la storia e andiamo a parlare di Back in USSR. Bravo, bravo. Grazie. Bravo. Ha fatto le prove. Scusate la pronuncia, però. Sono due ore qua fuori a riprovare. Sì, fuori. È un brano di John Lennon e Paul McCartney del 1968, inizialmente apparso come traccia d'apertura dell'album The Beatles, altrimenti noto come White Album. Il brano fu registrato durante le sedute per l'album The Beatles il 22 e 23 agosto del 1968, appunto, negli studi londinesi della EMI ad Abbey Road. Nelle sedute di mixage dell'album, curate da Lennon, McCartney e George Martin, fu deciso di utilizzarlo come traccia d'apertura. Alla registrazione erano presenti però solo 3 dei 4 membri del gruppo. Ringo Starr, infatti, dopo un litigio, aveva un litigio durante la prima sessione di prove, aveva lasciato il lavoro e si era preso un bel periodo di vacanza trascorso in Sardegna. Non male, quasi non quasi male. Adesso anch'io litigo con voi, prendo e me ne vado a, vabbè, chi te le paga? Alibaba. Comunque, la parte di batteria fu quindi principalmente curata da Paul McCartney, che nel gruppo suona anche il pianoforte, oltre ovviamente al basso elettrico. Fa tutto lui. Eh sì, praticamente sì. Le chitarre sono invece di George Harrison e John Lennon, il quale fornisce nel brano anche il rinforzo vocale. Come caratteristica tecnica, il brano è un rock and roll veloce, anche se l'ultimo del suo genere nella discografia del gruppo. Benché scritto formalmente dalla coppia Lennon e McCartney, il brano è quasi interamente di quest'ultimo. Infatti Lennon si è solamente limitato a fornire un rinforzo di chitarra nella parte strumentale. Esso è tuttora eseguito nelle performance dal vivo di Paul McCartney, per esempio nel suo album Live, Tripping the Live Fantastic del 1990. Il brano che inizia sui reattori di un aeroplano al decollo narra in prima persona di un uomo che torna in Unione Sovietica partendo da Miami. La narrazione gioca sulle assonanze in inglese tra Stati Uniti US e Unione Sovietica USSR. Infine, il titolo del brano conteneva anche una connotazione, diciamo, satirica, rivolta al governo britannico. Nei primi mesi del 1968 fu organizzata una campagna di breve durata dal titolo I Am Backing Britain, cioè che significa io sostengo la Gran Bretagna, a opera dell'allora primo ministro Harold Wilson, tesa a promuovere e a sostenere il commercio interno e la produzione del Regno Unito. Tuttavia, però, in agosto dello stesso anno la campagna era già stata di fatto dismessa, purtroppo. Va bene, adesso back in USSR. Questi erano i Beatles, back in USSR. Adesso i Creedence con Susie Q. Susie Q è una canzone pubblicata originariamente dal cantante e chitarrista Dale Hawkins sul lato B, Don't Treat Me This Way. La versione più conosciuta è quella realizzata dai Creedence Clearwater Revival, il loro omonimo album di debutto nel 1968. Uscita come singolo, divisa in due parti, lato A e lato B, fu una delle loro prime hit e l'unica top 40 del gruppo, non scritta da John Fogerty. John cantò la prima e la terza strofa, mentre il fratello Tom cantò la seconda. E quindi la mettiamo, Creedence, Suzy Q. Erano i Creedence con Suzy Q. Ora parliamo di Jimi Hendrix. Stranamente, perché anche lui non ritorna mai in questi anni. Io farei una puntata solo su di lui, farei una puntata, vedi un po'. E parliamo più esattamente di Voodoo Child. che è il titolo di una canzone del gruppo musicale The Jimi Hendrix Experience, contenuta nel terzo e ultimo LP prima della prematura di partita di Hendrix, purtroppo. Eh sì, purtroppo sì. Electric Ladyland. La canzone si è classificata alla posizione numero 101 nella lista delle migliori 500 classifiche stilata da Rolling Stones. Il brano venne registrato da Hendrix nel 1968 e in seguito fu ripubblicato su singolo dopo la morte del chitarrista nel 1970. Era il lato A di un singolo costituito da 3 tracce e raggiunse la prima Dai, basta! Bambini, basta! La prima posizione in classifica in Gran Bretagna. Sul 45 giri il brano venne erroneamente indicato come Voodoo Kile, scritto proprio Kile. Kile. Che invece era il titolo della lunga jam blues, anch'essa presente nell'album Electric Ladyland. La B-side del singolo conteneva non due... Non Ladyland, per caso no? No, Ladyland. No, colà, Ladyland. Ah, ok, perfetto. Okay. Il B-side del singolo conteneva due precedenti successi di Hendrix, Hey Joe e All Along the Watchtower, bellissimo, che abbiamo già ascoltato, sì, tra altre cose. Sia Hey Joe che All Along the Watchtower. Mm. La canzone diventò subito uno dei capisaldi dell'esibizione dal vivo di Hendrix, durante le quali il pezzo aveva una durata variabile tra i 7 e i 18 minuti, a seconda di come gli andava. Notevoli esecuzioni del brano furono suonate al Festival di Woodstock e in vari show nel 1969, al Royal Albert Park. Hendrix si riferisce alla canzone definendola l'inno nazionale delle Pantere Nere, che era un gruppo... Lo sapete? No, no. Era un gruppo rivoluzionario americano che lottava per i diritti dei neri. E questi erano grazie, Nanno. E questi erano i 5 secondi di The Story of the Nun. Jimi Hendrix, Voodoo Child. We'll be right back. Era Jimi Hendrix con Voodoo Child. Fantastico. Abbiamo finito la storia anche per sì, oggi. La penultima parte, mercoledì mancano, prossimo la quarta ed ultima parte. Mancano 10 minuti alle 8 sì. E quindi ora entra il classico momento del... No vabbè dai, c'è la frase... Riempire la scaletta. No, riempire la scaletta, dai. Sono frasi, citazioni di cantanti celebri, famosi di rock che... E chi ce la dice questa frase famosa? Ve la dico io, no? Ecco. Questa voce aspetta, soave. Aspetta, cavo anche la base, aspetta. In bianco, sei, dai, sa, vai. Sa. Prova, vai. Ragazzate subito quel consegno. Cioè, consegnate subito. Bene. Sì, ho sentito dire che c'è un libro su di me, ma non l'ho mai letto. Anthony Kiedis, cantante dei Red Hot Chili Peppers. Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. Found them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. Omosessuale. Just another way to survive. Danny California dei Red Hot Chili Peppers. Bene, bene, bene, bene. E anche oggi siamo giunti alla fine. Eh sì, siamo giunti al termine. Già. Purtroppo sì, purtroppo sì. Siete stati un'ora con noi, niente, come? Mi avete sopportato. Avete sopportato la voce del Bindo. Che non tornerà più, vero? Che non tornerà più. Come? No, anzi, sei licenziato. Era il tuo regalo. Era la tua ultima salvezza dopo la rosti della regia di settimana scorsa. Due settimane fa. È stato bravo anche come speaker. Sì. Davvero bravo, dai. Se l'hai cavata molto. Beh, molto è la prima bene. Volta, sì, sì, molto bene. Niente, allora noi ci risentiamo settimana prossima. Ma che fa? Piovi? Sicuro. Ma piove. Deve ancora venire una puntata dove non piove. Okay, notizianza, piove. Piove, ragazzi. Le informazioni più coprite. Comunque, ricordiamo la pagina Facebook. Ricordiamo come tutte le settimane, pagina Facebook, il Time Rock and Roll Radio F Vaticana, dove già da domani potete trovare il podcast di oggi. Bene. Potete riascoltare questa puntata. E soprattutto il contest, il concorsone, cioè come tutte le settimane le 5 canzoni che noi proponiamo, voi votate e la vincente andrà in onda. Non quella del Mazzeo, no, però. No, assolutamente. Vince una volta. Assolutamente. Vince no. Una. Da bere. Cena, la cena, io sono la cena. Potrei votare per lui, attenzione. Sono disposto a creare account finti su Facebook per votare la tua canzone. Sono disposto. Vinca il migliore. Comunque risalutiamo il nostro Luke che oggi è allo stadio, l'abbiamo appena sentito. Vabbè, sta prendendo l'acqua, sta sì, prendendo. Credo perché è alle viola, sempre. Niente, ci risentiamo mercoledì prossimo con la puntata speciale perché è la decima puntata. Esatto, quindi non mancate perché c'è non una perdetela. Bella o se smette o va bene bene o se smette. Esatto. O bene bene o male male. C'è una bella sorpresa mercoledì prossimo, manda quindi via. Non mancate. A mercoledì prossimo, come sempre, dalle 19 alle 20. Ciao a tutti. Ciao. Sigla, ciao.